快乐假期，现在出发吧。 爸爸，开车要系安全带哦。 儿子，开车要系上安全带哦。 老公，开车要系上安全带哦。 遵命。 安全带一如家人的拥抱，是牵绊，是约束，更是温暖。 北京人民广播电台提醒您，开车系好安全带，安全出游由家人的第一个拥抱开始。 北京人民广播电台古典音乐有限频道，有限调频98.6兆赫，欢迎收听。歌颂生命，舞动青春，歌舞剧场，人生与梦想的舞台。北京音乐广播古典音乐有限频道，每天10点22点播出。 Mamma soltanto felice perché ritorno da te。 欢迎收听歌舞剧场。我是你的朋友古月，在今天的节目中，请欣赏安德烈·博切利演唱的威尔第的歌剧咏叹调。安德烈·博切利是意大利著名的跨界男高音歌唱家，下面我们将要听到的是他所演唱的威尔第的15首歌剧咏叹调，风格多样，难度极大，具有抒情性和戏剧性。博切利的演唱把不同人物的内心情感刻画得栩栩如生，下面请欣赏他的演唱，由祖宾梅塔指挥以色列爱乐乐团伴奏。 Figlio, prima d'amarti, non può frenarmi il tuo martir. Padre infelice, corro a salvarti, o te fai meno, corro a morir, a te colmen, corro a morir, a te colmen, a te.Tra poco col sangue vostro la speglierò Ero già figlio prima d'amarti Non può frenarmi il tuo martir Padre infelice vorrò salvarti A te quando Corro a morir, a te colmen, corro a morir, a te colmen, a te colmen, corro a morir. Padre infelice, vorrò salvarti

conosca al fin chi sono, apprenda che anche in trono degli schiavi amor, apprenda che anche in trono, anche in trono degli schiavi, degli schiavi. Quel pensiero la gita, quale pensiero la gita, quale canto d'amor, quale canto, quale canto. O sente amor mi chiama, volario degio a lei, il serto mio darei per consolar quel cor. Certo mio darei per consolar quel cor, ma sappi al fin chi l'ama, conosca al fin chi sono, apprenda anche in trono degli schiavi amor, apprenda anche in trono, anche in trono degli schiavi. Sogno si avverasse. Un esercito di prodi da me guidato, e la vittoria, e il plauso di Menfi tutta. Dolce Aida, tornar di l'auricinto, dirti per te ho pugnato, per te ho vinto. Al sol, oh.

nel mio cor gli affanni, e se voi negherete il vostro aiuto, forse per sempre. Thank you.

La vita inferno all'infelice, in vano morte desio. Sto la scure